Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 17 febbraio, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere, e qui con me ci sono sempre Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. E Micaela Casalboni del Teatro dell'Argine, buongiorno. Buongiorno anche da parte mia. Siete sempre su Liberi Dentro, Radio Città Fujiko 103.1 e Teletricolore, canale 636 alle ore 10.30, cioè la replica. Mi raccomando, ascoltateci e guardateci in televisione. Apro sempre con la cronaca bianca, questa volta con una notizia che fa così. Fra panettoni artigianali e fragole coltivate in carcere nasce B-Coop. La leggo da redazione online ed è una notizia molto carina perché parla per l'appunto dell'unione di due cooperative sociali per persone svantaggiate tra Parma e Piacenza, la B-Coop, questa nuova realtà che unisce Orto Botanico di Firenzuola d'Adda e Biricco di Parma. E l'obiettivo è quello di sviluppare l'occupazione sul territorio, in particolare l'inserimento di persone svantaggiate. Ma perché B-Coop? Perché due volte cooperativa, cioè perché i protagonisti sono due cooperative sociali di tipo B, perché B sta per benefit per le loro cooperative, e questo l'ha detto il coordinatore del gruppo Domenico Altieri, che ha anche spiegato una cosa molto interessante, che di solito la lettera B, quando si dice sei di serie B, sta per scartare qualcuno, mentre lui dice, e quindi è spesso vista come seconda posizione, ma non nel mondo cooperativo, cioè nel mondo cooperativo il valore è invece un valore aggiunto, essere di serie B. Quindi la cooperazione di tipo B non fa assistenza, ma con i suoi inserimenti lavorativi dà valore alle persone fragili. In particolare due sono progetti avviati da queste due cooperative, sono Ex Novo, che è della cooperativa L'Orto Botanico di Firenzuola d'Adda, che si realizza nel carcere di Piacenza, in cui i detenuti sono impegnati nella produzione di fragole, ortaggi e miele, prodotti con criteri di sostenibilità e destinati al mercato locale, e anche il panettone di Ranzano, prodotto secondo una ricetta tradizionale con processi rigorosamente artigianali ed è frutto del lavoro del forno cooperativo di Piacenza, del forno di Ranzano della cooperativa Biricco. Sentiamo un telefono, ma tanto siamo in diretta, quindi è tutto in non programma nella nostra... Non è la regia, esatto. Forse voleva dire che toccava a te adesso. Forse toccava a te ora, esatto. Perché stiamo parlando di mercati, quindi parliamo di soldi, Ignazio. Sì, io mi collego molto, molto direttamente a questa idea della cooperazione, perché allora parliamo un attimo di finanze islamiche. C'è un articolo che è uscito su un giornale tunisino recentemente che dà questo dato. La finanza islamica, la chiamiamo in arabo l'iqtisad al-islami, e ha raggiunto un giro di affari che va sui 3,7 miliardi di dollari, e in 7 anni, dal 2012 al 2019, ha fatto un salto del 69%, e si dice che sarebbe una delle risorse alternative per la finanza del futuro. Mi sembra importante parlare di questo, perché quando si parla di Islam si va sempre sulle quelle solite cose, il velo, o quello che fa l'attentato, oppure insomma le solite cose. Invece bisogna parlare anche di queste cose interessanti. Qual è il punto, il nocciolo della finanza islamica, che mi sembra molto interessante e va nel senso della cooperazione? Voi sapete che nell'Islam il prestito interesse è proibito, si chiama riba. Allora l'idea della finanza islamica è che i soldi non sono una merce, e i soldi servono come strumento per creare ricchezza, ma non sono in se stesso una merce, e quindi vuol dire che la banca islamica, almeno idealmente, partecipa del rischio di impresa, ti dà dei soldi, guadagna se tu guadagni, perde se tu perdi. Invece il sistema classico è: io ti do 100.000 euro, tu mi devi dare 110.000 o 120.000, qualsiasi cosa succeda, io voglio i 20.000, non mi interessa. E se io ho perso? il CEO fallito. Quindi si tratta di vedere poi se tutte le rose fioriranno, ma mi pare che in questo momento, ecco, in cui abbiamo visto questa finanza un po' senza cuore, senza anima, dal mondo islamico ci viene un suggerimento: trattare i soldi come uno strumento per il bene e non come un oggetto, una merce presa in sé. È una bella idea. Grazie Ignazio. Ora non c'è un telefono a ricordarci che dobbiamo lanciare la canzone, ma te lo dico io. Cosa lanciamo oggi? Abbiamo Elissa, che è un'altra grande cantante libanese, di quello che i miei amici di Damasco lo chiamano il Changa Changa, non è certo, diciamo, un Kulthum o Feirouz, però insomma la si ascolta bene, che fa questo pezzo che si chiama Eshlaka, anche un po' vuol dire come va. Eccoci sempre su Liberi Dentro, sulle note di Elissa. Adesso, sempre con te Ignazio, noi da diverse settimane, da quando abbiamo cominciato il programma, ci stiamo occupando di Galateo Arabo Universale, perché contiene valori universali, validi per tutti. Stiamo parlando della noia, di come combattere la noia. Oggi cosa ci suggerisci? Allora, i due suggerimenti che vengono da due detti arabi molto semplici: aiutare gli altri e aiutare anche se stessi. Allora, il primo dice così: idkhal e saada ila al-qulub al-akharin mitsa musada al-muhtaj aw su'al al-shakhs hazin an hali, cioè per vincere la noia prova ad aiutare gli altri, perché l'annoiato è uno che si mette sul letto, per esempio, accende la televisione e sta lì con la noia cresce, diventa un cancro che ti ammazza. Invece prova aiutare un altro, oppure domanda a un altro che cosa ti rattrista. E poi l'altra cosa molto simpatica, e lo vedo molto collegato anche con Micaela questo, e dice così: tahir decor il manzel o decor il maktab, cioè cambiare qualcosa nella propria stanza, un colore, una cosa. Allora e anche questo lo sappiamo molto semplicemente, girare il tavolo, il letto, certe volte ti dà un altro colpo d'occhio. Allora mi piace pensare che il teatro è anche questo, scenografia, no? E il teatro è il luogo dove si inventano i luoghi. Esatto, è proprio così. Sì. È proprio così, perché oltre alla scenografia, quindi proprio al desiderio di trasmutare con degli oggetti un palcoscenico o una piazza, quello che è, e trasformare in un altro luogo, si trasformano anche le persone. Cioè c'è questo potere trasformativo del teatro, perché uno interpreta un altro personaggio, interpretando un altro personaggio può dire qualcosa del proprio malessere. Tanto è Amleto che sta male, mica io. Quindi anche il pudore di dire di sé se ne va via, perché lo faccio dire alla mia maschera. Sembra niente, ma quando facciamo laboratori di teatro questa cosa viene fuori moltissimo. Ma infatti ci è giunta una lettera da un carcere, di qualcuno che ci dice che il carcere lo aiuta a pensarsi in un altro luogo, addirittura. Ti è mai capitata questa esperienza, questa sensazione? Guarda, è pazzesca questa cosa. Noi tutte le volte che cominciamo un laboratorio facciamo finta con dei bambini o con dei ragazzi. Vabbè, i bambini poi sono formidabili perché loro sono sempre prestissimo in un altro luogo. Cioè basta un attimo mettersi nella loro concentrazione speciale da gioco e tutta la stanza si trasforma e guai se tu non stai dentro il loro nuovo mondo che hanno creato. Ecco, adesso il nuovo mondo ce l'ha creato intorno alla pandemia. Allora è interessante come nel pensare nuove forme per continuare a fare teatro, noi stiamo cercando veramente, anche così, anche con questi strumenti tecnologici che non li vorremmo perché vorremmo stare insieme nella stessa stanza con i corpi vicini, ciò nonostante la possibilità trasformativa di tutte le arti, la musica, la danza, il teatro, veramente la vedi. E ce lo dicono i bambini, ce lo dicono gli adulti, anche i ragazzi con i quali abbiamo lavorato l'anno scorso all'interno della Dozza, che io ho visto soprattutto gli ultimi giorni, i miei compagni, Paolo, Mattia e Giacomo, che invece erano lì praticamente tutti i giorni, questa cosa proprio era per loro formidabile, cioè poter essere lì, potersi trasformare, essere qualcosa di diverso. Per un attimo non pensare, oppure pensare, ma pensare con una forza diversa. Hai detto niente. Beh, mi viene spontanea una domanda. Abbiamo sempre parlato un po' di, adesso fino ad ora, di altri che si mettono la maschera e gli permette di essere, diciamo, più liberi. Io volevo chiedere a te se magari hai mai recitato in carcere o quando ti è capitato di recitare, che emozione però, se ti emozioni. Sì, tantissimo. In carcere ho fatto solo una lettura come attrice, proprio alla Dozza, tra 4-5 anni fa, di un testo che amo molto, di Erri De Luca, che parlava di viaggi difficili e di viaggi avventurosi. Però io sempre mi emoziono molto, nonostante adesso ho 50 anni e recito da 30. Che sia su un palcoscenico, che sia appunto in una piazza sperduta del sud della Tunisia o in altri luoghi dove siamo stati in Europa o fuori dall'Europa, è veramente potente quella cosa lì, questo entrare in contatto, questo fatto che ogni volta è sempre diverso. Non è mai il fiume non è mai lo stesso, non ci si bagna mai 2 volte nello stesso fiume. Ecco, questo per il teatro è molto vero, è un respiro nuovo. Grazie. Ora lancio io un brano musicale in onore della persona che ci ha scritto. Lancerei Nina Simone, To Love Somebody. E noi ci rivediamo domani. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre su Radio Città Fujiko, su Teletricolore, canale 636, e siamo con la nostra ospite ormai consuetudinaria, buongiorno Agnese Ciao, Drusiani, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. dell'equipe sanitaria del carcere della Dozza di Bologna, l'ASL nel carcere della Dozza di Bologna. E con te Agnese abbiamo toccato finora diversi temi, ma oggi volevo concentrarmi un pochino con te, su quello che accade quando si presentano in carcere i cosiddetti nuovi giunti, cioè i nuovi detenuti che entrano nella struttura penitenziaria. Perché una cosa che si dà, diciamo, un pochino per scontata è questa, che il concetto di sanità ospedaliera viene spesso associato solo ai cittadini, però ci si dimentica che c'è anche tutta un'altra fetta che ha pieno diritto all'assistenza medica, e tra questi ci sono anche i reclusi in carcere, e questo naturalmente per il diritto alla salute pubblica, che è pubblico, sancito anche all'articolo 32 della nostra Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale nell'interesse della collettività. E quindi la domanda che ti volevo fare oggi era proprio questo: come si attiva la sanità quando i detenuti entrano in carcere? Allora, un po' come secondo me accennavo anche l'altra volta velocemente, ovviamente viene fatta una prima visita di accoglienza alla persona con delle prime domande anamnestiche e un primo inquadramento di chi è arrivato da parte del medico, ovviamente. Dopodiché la persona viene seguita e, quando viene poi dopo mandata nella sezione in cui attenderà di essere ricollocata, nelle sezioni diciamo definitive in qualche modo, e, viene seguita in quale modo? Proverei a fare diversi passaggi, nel senso che per quanto riguarda la medicina di base, quindi quello che noi possiamo chiamare il medico di medicina generale quando siamo sul nostro territorio, e questo è presente durante le mattine della settimana, ok? E per chiedere visita è sufficiente chiederlo all'infermiere quando la mattina passa tutti i giorni a dare la terapia. Esatto, insomma, certo. Diciamo che ci sono diverse giornate della settimana in cui è presente proprio per fare le visite ambulatoriali programmate, quindi chiaramente non si parla di urgenze, ma come se fosse sul territorio un medico da cui noi andiamo, e quindi uno si segna per andare a visita dal medico, ok? Nel tutti gli altri momenti della giornata, quindi il pomeriggio, weekend e le notti, ovviamente c'è garantita una continuità assistenziale, quindi noi abbiamo medici e infermieri che garantiscono tutto quello di cui c'è bisogno, urgenze, necessità, chiaramente non come visite programmate, ma come richieste estemporanee, ecco, rispetto a quello di cui c'è bisogno in quel momento, soprattutto per quanto riguarda la parte clinica, ecco, perché gli infermieri hanno tutta una loro programmazione anche di ambulatorio e di gestione della terapia anche pomeridiana e serale, ovviamente, in tutte certo. Le sezioni, ok? Dopodiché, questo per quanto riguarda il medico appunto di base. Se poi una persona avesse dei bisogni di tipo più specialistico, come esattamente? Per esempio diciamo problematiche di tipo infettivologico. Problematiche di tipo o bisogni legati alle tossicodipendenze certo. O alla salute mentale, ok? Noi abbiamo gli specialisti interni dedicati, per attivarli è necessario, come fuori, diciamo, parlarne con il proprio medico di base che farà la richiesta della visita specialistica. Quindi il passaggio è, riepilogando, io mi segno con l'infermiere, vado dal medico di base, gli dico che ho questa problematica, e per cui avrei bisogno, credo che avrei bisogno di questo specialista, il medico di base valuta insieme alla persona e fa la richiesta. A quel punto verrà fatta una consulenza da uno di questi medici specialisti. Se la persona effettivamente ha una problematica che viene ritenuta attinente a quell'area, la persona viene presa in carico e a quel punto costantemente viene seguita dalle diverse equipe che sono appunto insomma la salute mentale, come le tossicodipendenze, come per esempio il medico infettivologo. Ok, questo benissimo. Per quanto chiarissimo. Funziona praticamente nel piccolo come funziona la nostra sanità pubblica, semplicemente magari forse non ci sono le file di attesa che abbiamo all'esterno. Ma questo è rassicurante perché c'è tutto un altro mondo dentro, quindi questo è molto più rassicurante per il tipo di servizio offerto. Agnese, stacco musicale, cosa lanciamo? Allora, oggi lanciamo Shimbalaye di Maria Gadù. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu, imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Rieccoci sulle note di Chimbalaie, sempre con te Agnese, e riprendiamo da dove ci siamo lasciati sull'ingresso, cosa succede quando il detenuto, i nuovi giunti entrano in carcere e si attivano tutte le procedure mediche e chiamate anche screening, cioè nel senso vengono effettuati degli esami specifici per capire le condizioni di salute della persona. In che cosa consistono? Allora, diciamo che quando la persona fa la prima visita già le viene chiesto comunque se darà l'adesione a una serie di esami ematici e di controlli che vengono fatti di routine, che poi dopo nei 10 giorni più o meno successivi verranno fatti. Oltre a questi ci sono degli screening, come ad esempio, soprattutto legati ovviamente alle malattie infettive, come ad esempio lo screening per la tubercolosi e in questa fase chiaramente anche lo screening per il Covid, per cui una volta che uno entra deve poter in qualche modo passare questo screening per poter essere allocato nelle sezioni, perché comunque noi siamo in una comunità che viene definita semichiusa, ok? E quindi in questo senso è molto importante cercare di gestire perlomeno in ingresso tutte quelle malattie molto infettive che poi dopo avrebbero una trasmissibilità davvero grossa all'interno delle sezioni nel caso. Quindi una volta effettuati tutti questi screening, questi controlli, come procede poi l'allocaggio della persona detenuta e le successive visite? Allora, diciamo che una volta che una persona è appunto è risultata negativa, facciamo per esempio al Covid ovviamente, perché per poter essere allocati bisogna che una persona sia negativa al Covid o comunque abbia, altro esempio, passato lo screening tubercolotico e quindi si abbia in mente qual è la sua situazione da quel punto di vista, la persona una volta allocata ai piani troverà che anche nei singoli piani, nelle singole sezioni, c'è un medico o due, spesso sono anche due che si alternano perché se sono diverse sezioni è così, e che hanno i diversi giorni di visita, sempre ambulatoriale, e le persone si possono segnare la mattina per andare a visita. Se già nella fase iniziale le persone sono state prese in carico anche dalle equipe specialistiche, queste le continuano a seguire anche una volta che sono allocate ai piani. Ma questo può, come dire, avvenire sempre, perché noi sappiamo che anche una problematica di tipo mentale, legata alla salute mentale, uno la può anche registrare successivamente, non per forza entra dentro già con questo tipo di problematica. E quindi c'è sempre l'occasione di chiedere una visita specialistica, sia in questo senso, che ovviamente è anche legata al tema delle tossicodipendenze, ecco. Grazie Agnese. Questa settimana, in realtà poi sono già partiti, partiranno presto i laboratori, e quindi ci sarà, ricordiamo, anche il vostro, dell'ASL, sì, vero? E sì, ci sarete tu e una tua collega, giusto? Allora, in realtà probabilmente sarò soltanto io, adesso la stiamo preparando, sarò soltanto io, e questa prima occasione sarà un'occasione in cui fare un momento di rilassamento e meditazione guidata, come vi anticipavo, ma anche di introduzione di tutto quello che sarà il progetto successivo. Grazie, ora lancio un brano io e lancerei Only You di Jimmy Sharp Moody. Musica. I dig myself into a trying to fill an empty space. I wake up with someone I don't know, hoping it might ease the pain. I look for love on drunken nights, like I've got something to prove. But I would trade in all those times, babe, just for one more with you. I wish Siamo giunti sempre ai saluti di fine puntata con la nostra Agnese Drusiani dell'Equipe Sanitaria per il Carcere, che però ritrovate oggi, anche oggi pomeriggio alle 17 sul canale 636 di Teletricolore, perché c'è l'appuntamento sempre dei laboratori di Eduradio, sempre con Agnese, a cura di Agnese Drusiani dell'Equipe Sanitaria ASL della Dozza. E noi ci rivediamo sempre domani alle 9 su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Un saluto e a domani.